Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. Ritorniamo in onda, buonasera a tutti, sabato 8 settembre del 2018, la data è sempre quella, la serata è sempre quella del sabato dinner and dance al convento di Lonato, ma è 1:57 del mattino, quindi ci stiamo piano piano avvicinando al termine, soprattutto si sta inoltrando la notte, speriamo che si stiano divertendo sempre di più tutte le persone fuori e glielo chiederemo, ne approfittiamo per chiederlo a un'altra delle protagoniste di questa serata, cerchiamo di capire come è andata, se si è divertita e soprattutto quanto si è innamorata del ragazzo alle nostre spalle che ha tutto l'interesse a mostrare il lato migliore di sé in questo momento, con la, insomma, romanticità e la galanteria che da sempre contraddistingue noi del sesso maschile e soprattutto a mettersi in condizione, come vedete, di mostrare il lato migliore di sé. Detto questo, salutiamo, dicevo, un'altra delle protagoniste di questa serata, Sara, benvenuta. Ciao, grazie. Come va? Quanto sei scioccata da questo bel momento? Tantissimo. Pensa che io convivo con questa sensazione, cioè rivedere questa bella gente più o meno due volte a settimana da anni. Quindi rendi, cioè, tu non immaginare il mio stato mentale, immagina i miei incubi di notte. Cioè immagina come dormo la notte io di fronte a queste belle immagini. Vuoi riassumere per il gentile pubblico che ci ascolta cosa ti è passato davanti agli occhi? Perché è difficile definirlo un essere umano. Quindi... persone che ballano benissimo e che hanno proprio spirito del ritmo, hanno studiato della danza classica e soprattutto... Mi piace Sara perché è in grado di rendere reale l'impossibile ed è una qualità che veramente in pochi hanno, sembra quasi che lo faccia di lavoro, di concretizzare delle idee. Quindi invitiamo tutti a iscriversi alle scuole di ballo, ecco, questa era un po' la morale del messaggio e della serata. Allora Sara, oltre che a promuovere le scuole di ballo di tutta la provincia di Milano, dici perché sei qui con noi questa sera? Allora, sono qui stasera perché mi sposo fine mese, le mie amiche e parenti fantastiche mi hanno regalato questo weekend stupendo. Addirittura weekend, quindi sì, avete fatto, come dire, oggi, tutto il pacchetto. Sai già cosa c'è in programma per domani? No, sorpresa. Allora, mi hanno rapito stamattina da casa e niente, io ho detto sono qua e ogni 3 secondi c'è qualcosa di nuovo. Madonna, è peggio di una serie su Netflix, cioè nel senso sono colpi di scena continui e imprevedibili. Bene. E tutto questo per festeggiare cosa? Dici un po'? Il mio matrimonio. Beh, nostro, bello, mi piace. Il primo matrimonio di gruppo della storia. Fantastico. Il primo caso in cui si sposano più di 10 persone contemporaneamente. Vogliono entrare nel Guinness dei primati. Mi fa piacere. Niente, il mio matrimonio di fine mese. Quindi, niente, festeggiamo e stiamo bene insieme. Oh, bene. Chi è il fortunato, futuro fortunato? O meglio, già anche fortunato Luca, perché siamo lì lì. Si chiama Luca, bene. Tra l'altro sottolineiamo anche l'originalità del modo in cui si sono trovati Sara e Luca, che sono i nomi più comuni della storia d'Italia, e quindi mi piace sempre pensare che ci sia un dio dell'amore che li fa e poi li accoppia, come si dice. Quindi poteva conoscere un Ermenegildo, un Evaristo? No, ha conosciuto un Luca, perché chiamandosi Sara non poteva far altro che conoscere un Luca. Anche questo, penso che questo però lavora con noi, quindi è ancora più grave la cosa, perché dovrebbe essere un po' l'immagine del locale, e pensa che immagine diamo se questa è lo spettacolo a cui facciamo assistere. E le hai, è anche difficile per me rimanere concentrato di fronte a tutto questo. Dicevo, le hai citate poco fa, direi di fare anche un passaggio, se ce la vuoi presentare, alle tue amiche e parenti, hai detto? Cioè, quindi immagino che c'è qualcuno imboscato che ha molto più a che fare con te. Sì, allora. Tipo lui, secondo me, è un tuo parente. Ah, è quello di prima. È quello per me o per lei? No, stai tranquillo lì, che non si sa mai che poi ti vengono degli strani istinti. Stai bello tranquillo. No, stiamo parlando con un ragazzo al vetro che ha cercato di propormi le sue grazie, ma io ho elegantemente rifiutato, mostrandogli un ombrello fondamentalmente e facendo il gesto che lo contraddistingue. Dicevamo, vai, amiche e parenti. Le presento io? presenta le due, è giusto che sia così. Federica, Valentina, Ilaria, Angela, amica, quasi cugina. Quasi, amica. Mi piace il quasi cugina. E amica. Cosa ma, quasi cugina? Come, è cosa manca? Cugina di mio fidanzato. Ah, okay, quasi cugina, perché manca l'ufficialità. Qui abbiamo due testimoni, tra l'altro. E dove sono? Dove sono le testimoni? Alla quasi cugina e quella di cui nemmeno ti ricordavi il nome, quindi figurati. Ha dovuto dirselo da sola perché non si ricordava. Non si ricordava come si chiamava, quindi è stata una scelta di cuore, una scelta appassionata. Tra l'altro volevo dire a tutti voi che la quasi cugina o è molto sostenitrice di Salvini o come dire lavora per Legambiente, esatto. No, io pensavo a Madonna mia, questa ora mi dimentico tutto. E vabbè, mi verrà in mente. No, quelle per la tutela della natura, non Greenwich, come si chiama? Greenpeace, vedi, ci capiamo. Per Greenpeace, perché è un bellissimo vestito verde, che però in mezzo al... Cos'è? Io sapevo Verde Speranza, mi fermo lì. Cioè, ho fatto la quinta elementare, non sono andato così avanti. Però, no, adesso dicelo al microfono perché mi incuriosisce. Chi di verde si veste? Chi di verde si veste, di sua beltà si affida. Si affida, perfetto. L'unico detto che non ha una rima nel mondo. Viva la Lega! Bene, bene, grazie. Questo momento di... Si sono impennati gli ascolti in questo momento e dall'altra parte altri ci hanno lasciato e non torneranno più con noi. No, vai, piccolo spazio testimone. Dai, diteci qualcosa della Sara che vi viene in mente. Tanto i discorsi li dovrete fare anche al matrimonio, quindi tanto vale prepararsi adesso. Poi li potete riciclare come vestiti. Sara è dolcissima, perfetta e bravissima a ballare. E come quello di prima. Come lui. È andata a scuola con lui. Molto. È andata a scuola insieme. E, ok, e la signora Salvini? La signora Salvini la conosce da ormai più di 10 anni e se dal primo momento la volevo buttare giù dalla metropolitana perché sono gelosa di mio cugino, adesso non vedo l'ora che diventi mia cugina. No, bello, mi piace anche questo cambio di sentimenti nel tempo. Prendo la palla al balzo per chiedere appunto quindi che c'è, cioè vi conoscete da tanto, da quanto ho capito, con Luca. Ah, io e Luca ci conosciamo da un 15 di anni. 15 anni? Da 13. Da 13, quindi la classica storia da, come si chiama lì, aiutami, Greenpeace. È l'amore eterno. Sì, l'amore eterno, quello che scrive i libri, scusa ma ti chiamo amore, strappa l'acqua. No, che Nicola Spark, ce l'abbiamo qui in Italia. Moccia, la classica storia mucciana. Perdonami, so che non si fa, ma sei giovane, quanti anni hai? 33, quasi 33. 33, quindi dai 18 più o meno. No, una ventina. Da quando avevi 20 anni? Da quando avevi 20 anni? Pensavo prima. Vabbè, insomma, però è la classica storia d'amore che ci fa sempre piacere ricordare e risottolineare nel mondo d'oggi in cui la fugacità, ti piace la fugacità? Bello come termine. In cui la fugacità regna sovrana, è bello anche sottolineare quando ci sono queste belle e lunghe storie d'amore. E cosa vi ha colpiti uno dall'altra, al di là dei nomi originali? Domanda difficile. Domanda difficile, amica mia. Se non lo sai tu, io non ti posso aiutare. Tra l'altro, vedete questo classico intercalare casertano? È proprio, c'è, cioè, il pirellone quando dice che scompare, cammina e saluta. E saluta. Quando è il destino, nel senso che c'è tutto ci ha colpito l'un dell'altro. Popola, vedi, riassunto perfetto. Nessun altro avrebbe potuto saper dire meglio. Va bene, allora vuoi prendere ancora qualche secondo per... No, intanto aspetta, salutiamo anche gli ospiti che ci guardano da fuori. Vuoi salutare anche loro che sono rimaste fuori per... Se no, quelli della 626 ci avrebbero. Federica e Giada, dovrebbe esserci l'altra mia cugina Nora, che anche lei è testimone, ma non la vedo. Secondo me ha colto l'occasione per fuggire e scappare. Può essere. Fuori e basta, giusto? Ok, sì, basta. Perfetto. Dicevo, vuoi prendere ancora qualche secondo per dire qualcosa, salutare qualcuno, esprimere un tuo pensiero, dire che hai votato 5 Stelle, così mi menate in diretta e facciamo il piccolo ascolto. Esatto, così facciamo il piccolo ascolto. No, volevo ringraziarle tantissimo perché sono delle persone veramente fantastiche e sono nel mio cuore non solo per questo weekend ma per tutto il resto e per come mi sono vicine. Bello, molto toccante, molto emozionante. Voglio mantenere alto il livello di emozione per sottolineare il buon cuore di queste ragazze. Infatti dovete sapere che parte delle buste che Sara riceverà verranno devolute a Salvini per pagare i, insomma, il fatto di essere indagato in questi giorni. Avrà dei processi da sostenere e quindi dovrà giustamente insomma, soddisfare le spese, e la quasi cugina ringrazia perché insomma ha messo il vestito anche per raccogliere fondi in favore dei futuri processi del nostro ministro dell'interno. Ah no, ma a parte gli scherzi, grazie mille ragazzi a voi. Naturalmente si scherza, sennò qui ci chiudono il programma e non ci fanno parlare più. E dicevo, grazie mille a voi per aver partecipato a una nostra serata. Speriamo vi siate divertite. In bocca al lupo Sara, grazie, per crepi, tutto quello che sarà. E grazie ragazze per avercela fatta conoscere, per avercela portata qui. Ciao, a presto, ciao, ciao.